24 mattino. Il problema dell'omicidio stradale non si risolve facendo una legge severa, perché tanto non serve a nulla. Anche prima era un reato usare il telefonino, essere ubriachi e via discorrendo. Si fa facendo capire alla gente che è sbagliato, si fa con le campagne sociali, con l'istruzione civica, facendo rispettare maggiormente le leggi che ci sono, non è colpa della polizia. Facciamo due conti sul numero dei controlli per guida in stato d'ebbrezza. Hanno detto 200.000 in un anno, che vuol dire circa 500 al giorno, che diviso per le 20 regioni vuol dire 50 a regione. Mi sembrano molto pochi. È così, le vostre opinioni continuate a mandarcele, insomma, al 349-238-6666. Il numero per gli sms e gli whatsapp, anche audio come avete sentito, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta, l'account Instagram di 24 mattino, c'è anche quello, il nostro account Twitter e ovviamente l'email 24mattino@radio24.it. 7:19 minuti e 30 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso. E questa è la parte dedicata e che dedichiamo alla rassegna stampa, come sapete. E iniziamo, come sempre, dando un'occhiata a come aprono i giornali, a cosa dedicano gli articoli principali. Beh, molto concentrati sugli esteri, da il Corriere della Sera che parla dell'avanzata di Haftar su Sirte, quindi la scelta è più sulla Libia, il blitz delle forze anti-Sarraj e i contrasti, di questo parla il Corriere, tra Roma e Parigi. La Stampa, che si dedica invece all'Iraq, i soldati italiani via da Baghdad, Libia sfuma, intanto sì, c'è nel titolo anche la questione della Libia, il fatto è sfumata la missione europea e Roma cerca il dialogo con Mosca e Ankara. Soldati italiani via da Baghdad vuol dire che nella notte i carabinieri si sono trasferiti, non se ne sono andati via dall'Iraq ma si sono spostati da Baghdad, ci arriviamo tra un attimo. Europa svegliati è il titolo della Repubblica e sono le parole dell'ex premier e commissario agli affari economici europei Paolo Gentiloni. La crisi Trump-Iran dimostra che l'Europa deve fare passi in avanti o continuerà a trovarsi di fronte a fatti compiuti. La Libia è nel baratro, colpa anche di Salvini, dice Gentiloni. Ora spingiamo Sarraj e Haftar a incontrarsi, è il titolo del Fatto Quotidiano ed è un virgolettato perché sono le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che viene intervistato appunto proprio dal Fatto Quotidiano, da Luca De Carolis. E poi vi leggeremo tra un attimo un passaggio di questa intervista nella parte centrale della nostra rassegna stampa per capire un po' cosa dice il ministro degli esteri. Proclami di guerra è il titolo di Avvenire. Giuseppi schiera le truppe, l'Europa lo lascia solo, è il titolo della Verità. Il premier si fa intervistare, si mostra determinato al centro della scena, peccato che una missione in Libia sia nel caos. Il Sole 24 Ore si dedica agli aspetti economici, crisi Iran-Stati Uniti, l'oro vola ai massimi e tensione sul petrolio. Il Manifesto parla di una reazione a catena e si riferisce all'Iran e alla decisione di ritirarsi dagli accordi sul nucleare. Il Giornale titola su altro tema, incivili al governo, processo politico ad autostrade, barbarie sulla prescrizione. Libero si dedica invece alle minacce a Salvini, arrivate via social. Salvini minacciato di morte. C'è una Magnum 7,57 pronta per te. Un odiatore a Matteo, spero che un terrorista ti faccia fuori, così impari a non dare aria ai denti. Oh, e il Messaggero, che mi era finito in fondo qua nella lista, ma insomma si dedica anche questo alla Libia. Libia, Italia più sola, vertice subito, il pressing sull'Europa per creare un gruppo di contatto. E iniziamo come sempre però da qualcosa di laterale, non centrale nei temi della giornata e che però... abbiamo trovato rilevante tra le pagine dei quotidiani. E la prima cosa che vi voglio segnalare è questa bella pagina di Avvenire, ed è pagina 10, che ci ricorda un anniversario. Ed è un anniversario che, insomma, è passato un po' sotto silenzio. Era il 7 gennaio del 2010, quindi sono passati esattamente 10 anni, quando scoppiava, e qualcuno di voi la ricorderà, la rivolta di Rosarno. Era la rivolta dei braccianti agricoli, soggetti a caporalato, insomma, parliamo ovviamente prevalentemente di immigrati, che fecero scattare una protesta feroce dopo che alcuni sconosciuti spararono diversi colpi con un'arma d'aria compressa su 3 immigrati di ritorno dai campi. Quella sera stessa scattò la protesta, anche violenta, dei braccianti, che proseguì il giorno dopo. Le indagini fecero emergere un ruolo dell''ndrangheta nelle aggressioni agli immigrati. E che cosa è successo? Il titolo di Avvenire è molto chiaro: Rosarno, dopo la rivolta, il nulla. Nel tempo che cosa è successo? È successo che nel 2011 vennero realizzati un campo container a Rosarno per 200 persone, una tendopoli per 500 persone a San Ferdinando. Il tutto si trasformò in un'immensa baraccopoli da 2500 persone che all'inizio, a marzo, fu smantellata, ma con appunto un risultato, nel racconto di Antonio Maria Mira, inviato a Rosarno, che è praticamente nulla. Dopo 10 anni non è cambiato niente, solo che non c'è più la baraccopoli, ma i ragazzi vivono sempre allo stesso modo. A parlare è Bartolo Mercuri, detto Papa Africa, presidente dell'associazione Il Cenacolo, che da 20 anni affianco appunto dei poveri e degli abbandonati, immigrati e italiani, soprattutto i più nascosti, e racconta che la terribile disumana baraccopoli di San Ferdinando, dove vivevano più di 2000 persone, è stata smantellata il 6 marzo 2019, ma nulla è stato fatto per dare un'accoglienza degna ai lavoratori immigrati che comunque anche quest'anno sono arrivati per la raccolta degli agrumi, che avviene proprio ovviamente in questi periodi necessari, ma sempre sfruttati, e quest'anno sempre più nascosti. Quindi cosa è successo? Che è stata smantellata la baraccopoli, ma il caporalato rimane e queste persone continuano a lavorare sotto caporale, ma semplicemente nascosti e con più paura di farsi vedere. Questo è un buon racconto appunto di Antonio Maria Mira, inviato a Rosarno, che ci ricorda questi 10 anni. Per rimanere al sud e spostandoci a Foggia, vi voglio segnalare, qualcosa l'abbiamo toccato poco fa nella parte delle 6:30, questa escalation delle bombe che tiene un po' in ostaggio una parte della città di Foggia, queste bombe messe dalla criminalità organizzata dopo appunto una serie di attentati che hanno fatto saltare in aria macchine, bar, negozi. Un uomo che è stato ucciso, una guerra di mafia, di criminalità, che è stata un po' sotto traccia, e Repubblica ci dedica una pagina, pagina 23, con l'intervista a Don Ciotti, che chiede a Foggia di alzare la voce. Ha convocato una manifestazione per il 10 di gennaio alle ore 16 per chiedere appunto alle persone di scendere in piazza, raccontando anche questo, facendo, se vogliamo, un po' di autocritica, no? Tutti insieme, nessuno si sente escluso, hanno bisogno di noi, dice Don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera. Noi chi, Don Luigi? Noi che in questi anni siamo stati troppo disattenti rispetto a quello che accadeva in questa terra. Libera da tempo in quelle terre, combatte, lotta, ma c'è bisogno di tutti. Quello di Foggia, del Gargano, è un territorio complesso, negato, inesplorato e soprattutto sottovalutato, nonostante il grido di aiuto di alcuni magistrati, strati delle forze di polizia che da sempre combattono i clan. Per troppo tempo, dice Don Ciotti, li abbiamo lasciati soli, e forse adesso appunto è il momento, racconta, di non lasciarli più soli, di avvicinarsi a loro. E restando nel mezzogiorno, venendo però a un tema che ha una caratterizzazione nazionale, ne abbiamo parlato venerdì, lo avete sentito anche in GR24, c'è tutta la questione incredibile delle aggressioni alle ambulanze e ai medici, e siamo a Napoli. Il racconto questa volta arriva a che fare, e appunto, come dicevo, lo avete sentito probabilmente anche in GR24, con le ambulanze. Il titolo della sempre della Repubblica, pagina 25: l'ambulanza sequestrata per una distorsione al ginocchio. Che cosa è successo esattamente ieri a Napoli? È caccia ad una gang di 6 giovanissimi del popolare rione Case Nuove di Napoli. Sono stati loro a sequestrare un'ambulanza nell'ospedale Loreto Mare e a dirottarla per soccorrere un amico che aveva subito una banale distorsione al ginocchio. Una vicenda assurda che si ripete. Improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ragazzi che prende di forza l'equipaggio, lo costringe a salire in ambulanza. Con 3 di questi individui a bordo, l'equipaggio si dirige verso la zona delle Case Nuove. Il mezzo arriva sul posto, viene circondato da un'orda di astanti inferociti che incominciano a ricoprire di insulti sanitari. Pensando al peggio, il medico si fa largo tra la folla e con stupore appunto trova un ragazzo con una distorsione al ginocchio. C'è anche l'intervista al medico, la realizza Antonio Di Costanzo, sempre per La Repubblica. Sarei voluto finire sui giornali per un gesto medico, dice, se avessi salvato delle vite in una catastrofe, se mi fossi reso utile alla società in modo diverso, ne sarei stato anche fiero, ma qui ho semplicemente evitato le mazzate ed è quello che deve fare un po' chi si trova su un'ambulanza a Napoli. Purtroppo non ho fatto nulla di eccezionale. Come si sente? Turbato. Mi hanno prescritto 5 giorni di assoluto riposo. È andato a presentare denuncia ai carabinieri, sono stato ascoltato a lungo dai militari, c'è già una denuncia del direttore dell'ASL e sicuramente il ragazzo che siamo stati costretti a soccorrere e portare al pronto soccorso è facilmente individuabile. È la prima volta che le capita, sì, anche perché sono al lavoro da pochissimo. Solo a dicembre ho superato la formazione al corso di emergenza territoriale dell'ASL di Caserta e ringrazio l'autista e l'infermiere, loro hanno molta esperienza sul campo, abbiamo collaborato in modo perfetto. E a questo punto, come raccontano molti giornali, il ministro Lamorgese promette presto i soldi per montare le telecamere sulle ambulanze, e questo invece è il racconto che trovate dal quotidiano La Repubblica. Il giornale invece ci porta a nord e ci porta in un tema che resta sempre un po' sotto traccia e che ha a che fare con lo spopolamento dei comuni. Lo spopolamento dei piccoli comuni, soprattutto dei piccoli comuni di montagna. Dalla prima pagina inizia il pezzo di Vittorio Macioce che ci porta a Podensoi, un paese delle Dolomiti di 500 abitanti, dove nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio della chiusura dell'unico negozio che era rimasto a Podensoi. Un negozio che chiude, i proprietari Vincenzo e Laura Sacchette si sono arresi, hanno ringraziato tutti i clienti con un cartello lasciato lì sulla porta. Troppo stanchi, troppi anni a resistere controvento, a fare i conti con la fatica, le tasse, la burocrazia, e un paese che giorno dopo giorno si spegne. Un grande tema questo dello spopolamento dei comuni di montagna, che viene ripreso anche in un pezzo di Serenella Bettin, sempre a pagina 16 del giornale, e che ci porta invece, più che in montagna in questo caso, in collina, ma in un paese che vive un doppio, cioè due ordini di problemi. Lo spopolamento tipico è quello dovuto alle scosse sismiche. Siamo a Castignano, 2800 abitanti, sulle colline della provincia di Ascoli Piceno, e dunque siamo sulle Marche, ai piedi del Monte dell'Ascensione, a 473 metri sul livello del mare. Il sindaco che lancia un appello e dice: stiamo chiedendo al governo misure per fermare lo spopolamento delle aree interne, ma sembra che non interessi un granché. Ci lamentiamo dei disastri ambientali e quant'altro, ma se non si cura il territorio a monte, a valle saranno solo disastri. E appunto parteciperà insieme ad altri comuni alla manifestazione organizzata dall'ANCI, che coinvolge tutti i sindaci del cratere sismico, quelli delle 4 regioni coinvolte. Il tema è la ricostruzione lenta e il decreto sisma approvato a dicembre 2019, definito inefficace. Una pausa. Ed eccoci di nuovo, ripartendo da una storia che, insomma, se è un po' come paiono raccontarla i giornali e non come la versione data dall'uomo, ha francamente dell'incredibile. Siamo a Imola, quindi in Emilia Romagna. La storia è questa, è di un ragazzo al quale viene rubato l'iPhone. gli viene rubato da un altro ragazzino, non un ragazzino in questo caso, un ragazzo di 25 anni, originario del Marocco, con regolare permesso di soggiorno. Sarebbe stato lui a rubarglielo, almeno questo è quello che ritiene. E dunque, che cosa succede? Il padre prende il suo fuoristrada, lo incrocia questo presunto ladro, lo investe e lo uccide. Il padre del proprietario dell'iPhone. È quello che sarebbe successo a Imola, anche se l'uomo racconta un'altra storia. Ci scrive Franco Giubilei a pagina 12 della Stampa. Alla polizia ha raccontato che lui non voleva ammazzarlo, che se l'è trovato davanti in macchina, voleva costringerlo a fermarsi per chiarire una volta per tutte la vicenda dell'iPhone rubato al figlio pochi giorni prima. Il fatto è che ha accelerato e lo ha investito col suo fuoristrada, lasciandolo a terra moribondo sull'asfalto di una piccola via del centro di Imola. Il ragazzo di 25 anni, originario del Marocco, con regolare permesso di soggiorno, è morto di lì a poco in ospedale. L'uomo che l'ha travolto con la sua Jeep, Vincenzo Iorio, è un meccanico di 44 anni, nato a Napoli, residente a Imola da tempo, ha chiamato i soccorsi, in pochi minuti ha raggiunto il commissariato. Ho investito una persona a due passi da qui, in via Mameli, ha detto sconvolto. Il tempo di verificare l'accaduto e di constatare che la vittima era deceduta ed è cominciato l'interrogatorio. Il punto è che l'uomo adesso è accusato di omicidio volontario, aggravato da futili motivi. Dunque, secondo quello che ritengono al momento gli inquirenti, lo avrebbe investito volontariamente perché aveva rubato l'iPhone al figlio. E a proposito di quello che succede sulle nostre strade, naturalmente c'è tutta la questione sulla quale tra l'altro ci state scrivendo, mandando messaggi WhatsApp audio delle persone ubriache al volante che insomma magari dopo una serata o in discoteca o al ristorante investono e uccidono. Nel nuovo caso ieri, siamo nelle Marche, le vittime: Sonia Farris, 34 anni, Elisa Rondina, 43, avevano trascorso la serata nel locale Megà, racconta il Corriere della Sera, pagina 20, lungo la provinciale 360 che conduce da Pongelli a Senigallia. C'era un revival di musica che spazia dal 60 agli 80, diventato una specie di tradizione. Sonia, parrucchiera, Elisa, una maestra elementare, entrambe di Colli al Metauro, siamo in provincia di Pesaro Urbino, cercavano di raggiungere al buio la loro auto lasciata in una stradina laterale, quando è sopraggiunta un'auto guidata da un uomo di 47 anni, autotrasportatore, usciva dalla discoteca, è piombata sulle due donne da dietro in corrispondenza di una curva dove c'era un restringimento di carreggiata e le ha uccise. Ha chiamato il 113 dicendo: ho investito qualcosa, non so cosa, e però fatto sta che si ripropone il problema. Qualche ascoltatore poco fa mi diceva insomma, ma cosa vuol dire quattro volte il tasso tasso alcolemico, quattro volte superiore alla norma? Se esco a cena con gli amici e magari bevo due bicchieri di vino, sono in perfette condizioni. Qua sul Corriere trovate l'intervista a Emanuele Scafato, direttore dell'osservatorio alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, il quale dice, vi leggo solo il titolo per darvi l'idea: un bicchiere basta a ridurre la visione agli incroci. Qua a pagina 12 c'è un po' il tema che sollevavamo anche prima, a pagina 12 invece del giornale, in un pezzo di Andrea Cuomo, c'è il ragionamento su quanto la legge abbia davvero fatto, la legge sull'omicidio stradale. Senigallia c'è un problema, ma anche Ponte Milvio c'è un problema, e Valle Aurina c'è un problema. E il problema è che trasformare ormai quasi 4 anni fa l'omicidio stradale in un reato a sé stante, con tanto di fattispecie diligentemente previste, non è servito a diminuire il numero di morti sulle strade in Italia. Nel 2019 le cosiddette stragi del sabato sera, orrido cliché giornalistico, hanno fatto registrare solo 11 morti in meno. I dati arrivano fino all'8 dicembre rispetto al 2018. E quanto al bilancio complessivo, nel 2018 ci sono state 3.325 croci d'asfalto, in calo rispetto al 2017, ma in aumento rispetto al 2016. Insomma, al netto di qualche oscillazione fisiologica, nulla è cambiato in questi anni, malgrado quando venne introdotta la legge che esacerbava le pene per chi uccideva, quando guidando dopo aver bevuto troppo, essersi drogato, ci si fosse posti di dimezzare i decessi su strada entro il il 2020. Come ricorderete, un pezzo simile era stato già pubblicato dal Sole 24 Ore un mesetto fa da Maurizio Caprino, che ci riportava esattamente questi numeri. Un tema da affrontare soprattutto adesso che, insomma, si torna a parlare di nuove norme penali per punire questi casi, sull'onda ovviamente del momento, per così dire, emotivo particolare. Cambiamo decisamente argomento e vi porterei, insomma, sulle parti un po' centrali della nostra rassegna stampa, a partire da tutte le questioni estere, no? E inizierei francamente, perché qua il tema è un po' anche la posizione dell'Italia, da questa intervista realizzata con il Fatto Quotidiano, dal Fatto Quotidiano, con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il quale si propone un obiettivo, a dire il vero, molto ambizioso, ossia far colloquiare Sarraj e Haftar. Cerchiamo la pace, anche Stati Uniti e Russia si devono parlare, il titolo all'interno, dice Di Maio, in Libia è in corso una guerra con interferenze esterne, l'obiettivo dell'Italia è ricondurre tutti gli attori che hanno influenza su questo scenario, dalla Turchia alla Russia, fino all'Egitto e agli Stati Uniti. Però la missione non è potuta andare in Libia, non vi volevano, replica Luca De Carolis. La situazione sul piano della sicurezza è difficile, ma la missione è in corso e lavora un incontro con le due parti. Se non sarà possibile in Libia, lo terremo altrove. Anche in Italia? Ne discuteremo. Di certo è stato scellerato bombardare la Libia nel 2011. Ora ci ritroviamo con una nuova Siria. Ma ci sono altre responsabilità e qua Di Maio accusa esplicitamente l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, che dice avvocò totalmente a sé il dossier libico puntando solo sull'immigrazione per farne un tema da campagna elettorale, una scelta del tutto sbagliata. Il dossier, nota De Carolis, glielo avete lasciato lei e il premier Conte. Il presidente del Consiglio ha lavorato sulla Libia, per esempio con la conferenza di Palermo. Senza risultati, però. Salvini non può dare lezioni sulla Libia, perché la sua unica preoccupazione era non far partire i migranti. Ma qui, se la guerra continua, i rischi saranno ben altri, con la proliferazione di cellule terroristiche a pochi chilometri dalle nostre coste. Questa è l'intervista, appunto, a Luigi Di Maio, che è il ministro degli esteri. Sempre per le questioni che riguardano gli esteri, c'è questo pezzo della stampa che ci pare interessante, che è poi l'apertura della stampa, che ci segnala un po' le tensioni che stanno crescendo in Iraq e che ha a che fare con i nostri soldati. Luce verde via dalla base, gli italiani lasciano Baghdad. Lo racconta Nicola Pinna nel suo pezzo a pagina 7 della stampa. C'è stato uno sgombero nella notte dopo un giorno passato nei bunker per proteggersi dai colpi di mortaio. Non rientreranno in Italia, ma si sposteranno in un altro compound considerato più sicuro, ed è un po' la testimonianza questa, che evidentemente quello che è successo con l'uccisione da parte degli americani del generale Soleimani è evidentemente qualcosa che ci riguarda tutti e ci può evidentemente toccare tutti. A questo, come si diceva, il Sole 24 Ore dedica una pagina, a quello che ci riguarda, diciamo, anche sul lato economico, dedica l'apertura, no? E la crisi Iran-Stati Uniti con l'oro che vola ai massimi e l'attenzione sul petrolio. I pezzi sono dalla pagina 2 alla pagina 4, con il racconto di Vito Lops di quest'oro che tocca i massimi dal 2013, e un ottimo approfondimento che vi voglio segnalare di Roberto Bongiorni sul tema del petrolio, in particolare del petrolio iracheno. Se avessero immaginato cosa sarebbe accaduto il 3 gennaio del 2020, probabilmente avrebbero rinviato i loro piani, racconta Roberto Bongiorni, ma non potevano sapere cosa passava per la testa del presidente americano Donald Trump. Il riferimento è alle alcune compagnie energetiche cinesi che, meno di 4 mesi prima del raid americano che ha ucciso a Baghdad Soleimani, alcune compagnie energetiche, confidando nelle grandi potenzialità petrolifere dell'Iraq, portavano avanti quel processo di cinesizzazione dell'industria energetica irachena, firmando un contratto per lo sviluppo di 80 piccoli pozzi nell'enorme giacimento di Majnun, proprio vicino a Basra, la più grande città dell'Iraq meridionale, talmente vicina all'Iran che negli uffici i suoi funzionari parlano spesso la lingua farsi. Ed è un pezzo interessante perché segnala gli interessi anche di Pechino, anche cinesi, che ci sono sul petrolio iracheno, un petrolio particolarmente importante perché è uno di quelli con i costi di produzione più bassi, racconta Roberto Bongiorni a pagina 2 del Sole 24 Ore. Una pausa. 24 mattino. Per fare i controlli ci vogliono gli etilometri, ci vogliono i boccagli, ci vogliono le revisioni degli apparati, di conseguenza ci vogliono i soldi. Fino a quando le forze dell'ordine saranno viste come una rimessa e nessuno ci metterà dei soldi sopra, non ci possiamo lamentare del risultato. Bah, buongiorno, secondo me ci siamo persi un'opportunità enorme. Ripristinare l'insegnamento dell'educazione fisica e civica, scusate, nelle scuole, perché è dal basso che si deve partire. Ed ecco le vostre voci sul tema appunto dell'omicidio stradale, di quello che è successo e di quello che sta succedendo sulle nostre strade. Vi voglio portare adesso invece su dossier molto concreti, una serie di dossier molto concreti, che sono le crisi aziendali e i problemi aziendali che insomma non ci siamo lasciati alle spalle nel 2019, nel senso abbiamo lasciato sospesi nel 2019 e che nel 2020 si ripresentano puntuali. A partire dall'Italia, come già vi dicevamo alle 6.30, c'è un buon pezzo di Gianni Dragoni, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 12, il quale ci racconta cosa? Che in 9 mesi le perdite hanno raggiunto quelle del 2018. Sono documenti riservati, questi ottenuti da Gianni Dragoni, relativi al periodo gennaio-settembre 2019, di cui il Sole 24 Ore ha preso visione. La relazione inviata dai commissari non indica il conto economico completo, ma solo i dati della parte alta, dai ricavi fino al margine industriale, non ci sono altri dati. E però, il margine operativo lordo dei 9 mesi è negativo, pari a meno 114 milioni rispetto ai meno 120 milioni dell'intero 2018. E qua poi Dragoni ricorda ancora insomma come siano in ballo le trattative con Lufthansa, con Delta naturalmente, ma soprattutto quale sia la condizione finanziaria di Alitalia, la quale non solo ha già bruciato i 900 milioni concessi nel 2017 dal governo Gentiloni e non ha rimborsato i 145 milioni di interessi passivi calcolati fino al 31 maggio scorso. In più si è presa appunto anche i 400 milioni arrivati dall'attuale governo, che evidentemente sono arrivati perché si è tenuto conto di questa condizione finanziaria che impediva evidentemente di proseguire con l'operatività in assenza di risorse fresche. A proposito di crisi aziendali, c'è tutta la questione dell'ILVA e qua vi voglio segnalare a pagina 14 il pezzo di Repubblica, del quotidiano La Repubblica, con Giuliano Foschini e Marco Patucchi, che ci ricordano che in un verdetto c'è il futuro dell'ILVA e di 11.000 operai, un verdetto che arriverà oggi. Il Tribunale di Riesame di Taranto deposita oggi la decisione sul ricorso dei commissari del siderurgico, i quali chiedono una proroga per i lavori dell'altoforno 2, del quale il Tribunale aveva disposto lo spegnimento. Insomma, si doveva spegnere l'altoforno 2, ormai la sapete la vicenda, e c'è stato un ricorso affinché non ci sia lo spegnimento, perché il processo di spegnimento dell'altoforno potrebbe essere irreversibile. E quindi oggi ci sarà questa decisione, alla quale sono appese ovviamente le sorti dell'ILVA, ILVA per la quale, racconta il Messaggero a pagina 14, il governo ha chiamato al tavolo le banche. L'esecutivo convocherà una riunione anche con Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti per valutare un loro coinvolgimento nel negoziato con i creditori prioritari. Il Ministero delle Finanze dovrebbe schierare appunto il commissario Laghi, l'ex commissario Laghi, come proprio consulente per trovare soluzioni sostenibili. Vedremo come andranno le cose appunto per l'ILVA e per Alitalia, mentre restano sospese anche le vicende della Popolare di Bari. Già a inizio 2019, racconta un banchiere al Sole 24 Ore, Torzi, nessuno voleva comprare le obbligazioni della Banca Popolare di Bari, e quindi la vicenda insomma ha ormai qualche tempo, già all'inizio del 2019. Mentre Repubblica a pagina 30 racconta di 300 milioni di crediti persi e mai rivelati, ossia la banca mai ha rivelato che aveva 300 milioni di crediti che non era in grado di recuperare. Le questioni più puramente politiche. Libero decide di dedicare l'apertura a queste minacce di morte a Matteo Salvini, arrivate tramite un messaggio su Twitter, una risposta su Twitter all'account Lega Salvini Premier. Questo messaggio recita: spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a dare aria ai denti. Ai denti, scritto tra l'altro con l'H davanti. Comunque ti aspetto a Cesena, che c'è pronto, c'è tutto attaccato, pronto un 757 Magnum, fidati che farà a centro, pensaci bene, noi non ti vogliamo, eccetera eccetera. Un odiatore ti ucciderò per il PD, è normale. Questo scrive il quotidiano Libero, con appunto Salvini minacciato di morte, la foto del leader leghista che si fa un selfie accanto a una Befana durante la festa della Befana organizzata ieri dalla polizia di Bologna, più che dalla polizia in realtà è dal SAP, il sindacato autonomo di polizia. Sempre le questioni politiche, ci sono un paio di interviste a nostro giudizio abbastanza interessanti. La prima è su quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle, è l'intervista all'ex ministro Lorenzo Fioramonti, una lunga intervista, due pagine, concita di Gregorio sulla Repubblica, pagina 10-11, il titolo principale è: nei 5 Stelle il dissenso non è ammesso, o taci o esci. Ora torno ai temi dell'ambiente. Professor Fioramonti, lei è stato al governo fino a pochi giorni fa, la stupisce che l'Italia fosse all'oscuro dell'attacco in cui è stato ucciso il generale Soleimani? Di Trump non mi stupisce nulla, mi stupisce la subalternità dei nostri governi alle sue politiche. Poi si parlano delle conseguenze con Fioramonti, delle conseguenze dell'uccisione di Soleimani. E però ci sono parole in realtà abbastanza morbide per Luigi Di Maio. Crede che il ministro degli esteri abbia la capacità di gestire una crisi così complessa? Bisogna dargli tempo, servono controllo e coraggio. La politica estera non è una dépendance dell'economia, a volte i neofiti non hanno coraggio per paura di ciò che non conoscono. Non mi riferisco solo al problema linguistico, Di Maio ha intuito, speriamo. L'altra intervista che secondo me potenzialmente può far discutere, e vedremo un po' se ne uscirà qualcosa, una qualche discussione interna alla maggioranza, e però sono le parole di Roberto Speranza, che è segretario di Articolo 1, è ministro della Salute, il quale dice che bisogna rivedere il Jobs Act e rimettere l'articolo 18, e chiede anche al Partito Democratico di affermarlo. Chiederà agli alleati di ripristinare l'articolo 18, intervistato da Monica Guerzoni a pagina 13 del Corriere della Sera. Esatto. Chiederemo garanzie a partire dalla disciplina sui licenziamenti collettivi, sui quali i giudici di Milano e Napoli hanno già rinviato la Corte di Giustizia Europea. Renzi non sarà contento. Renzi chiede di rivedere reddito e quota 100, i 5 Stelle non sono contenti. Io chiedo di rivedere il Jobs Act. Non siamo un governo monocolore. È una frase che ricorre, la troverete su qualche altro giornale, soprattutto una risposta a Giuliano Pisapia, che aveva criticato il Partito Democratico sul tema della prescrizione. Ha detto: beh, si dovevano fermare i 5 Stelle. Qualcuno nel PD gli ha risposto: occhio, non siamo un governo monocolore, ossia non siamo un governo composto da un solo elemento cioè la maggioranza non è composta da un solo partito, e quindi evidentemente facciamo quello che possiamo. Ed è il caso della prescrizione, sulla quale un po' di giornali lo segnalano, è saltato un nuovo vertice, a testimonianza forse la famosa quadra, per usare le parole di Umberto Bossi, non è stata ancora trovata. Prima di chiudere, altre due storie. La prima la troviamo sempre sul Sole 24 Ore. Siamo a pagina 9 con Micaela Cappellini, che ci segnala l'allarme dei produttori di riso italiani. Perché? Perché c'è il riso del Myanmar che minaccia l'italiano arborio. E qua, come sapete, è sempre un po' un tema di regole commerciali. Quando, se andate a vedere i trattati commerciali, i trattati nei quali, o meglio le leggi nelle quali vengono imposte dazi, troverete che i prodotti sono elencati in maniera estremamente minuta, cioè ogni singolo prodotto viene elencato, a volte addirittura non proprio con la marca, ma insomma ci andiamo molto vicini. Allora che cosa succede? Succede che un anno è passato, racconta Micaela Cappellini, da quando l'Unione Europea ha ripristinato i dazi sull'importazione di riso indica, quello a chicco lungo dalla Cambogia e dal Myanmar, e gli italiani, i produttori di riso italiani, l'Italia da sola produce il 50% del riso europeo e esporta il 60% della produzione all'estero, hanno ricominciato a respirare. Ma cosa succede? Che le importazioni di riso japonica dal Myanmar, un'altra specie di riso, sono aumentate del 300%. Perché? Perché i dazi ci sono su quel tipo specifico di riso, ma non ci sono su quell'altro, e quindi si chiede il ripristino di nuovi dazi. L'ultima cosa sulla quale vi voglio portare, l'abbiamo trovata sul Corriere della Sera, gira un po' sui quotidiani americani, però insomma qua siamo tutti un po' in attesa della giornata di domani, quando Carlos Ghosn, l'ex gran capo di Nissan Renault, cosa farà? Farà la conferenza stampa per raccontare perché è fuggito dal Giappone, era in libertà vigilata su cauzione ed è andato in Libano, e soprattutto come è fuggito, perché tante se ne sono raccontate, una custodia di un contrabbasso, una cassa per gli strumenti e via dicendo. Era come era prevedibile, la fuga di Ghosn potrebbe diventare un film su Netflix, racconta il Corriere della Sera a pagina 43. GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, parleremo di attualità internazionale con Marta Dassù e poi sarà con noi il leader leghista Matteo Salvini. A dopo.